Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic microphone check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buona domenica da Gegè Telesforo, ben collegati con il Groovemaster Studio per il soundcheck, la prova del suono. Come sempre la domenica è una prova del suono molto jazz, ma questa sera sarà felice la nostra Silvia Barba, perché le abbiamo cucito addosso la puntata in qualche modo, perché non solo è appassionata di musica, ma sei anche un'appassionata di cinema, in modo particolare americano. Esatto, buonasera a tutti, buonasera Gegè. Buonasera a te Silvia, sì, perché ho ascoltato con grande attenzione questo album di Bill Frisell, meraviglioso chitarrista che ormai negli ultimi anni realizza soltanto concept album con dei concept molto precisi e degli album anche molto ben realizzati. Album intitolato When You Wish Upon a Star, distribuito dalla Sony, con il quale Bill Frisell rivisita composizioni scritte da compositori che hanno realizzato colonne sonore immortali per i grandi film di Hollywood e non solo di Hollywood. E quindi in questo modo Bill Frisell, con un organico molto ben equipaggiato, soprattutto da un punto di vista creativo, perché l'organico si riduce proprio a 4 strumenti più voce, Bill Frisell, come dicevo, rielabora con nuovi arrangiamenti temi importanti come quello che stiamo per farvi ascoltare, che è una composizione meravigliosa scritta dal formidabile Henry Mancini per la colonna sonora di Breakfast at Tiffany del 1961, ovvero collezione da Tiffany con la bellissima Audrey Hepburn. Beh, tra l'altro apriamo davvero con una delle più belle composizioni di Henry Mancini e uno dei temi da film più celebri. Chi è che non ha mai ascoltato Moon River? Però una storia un po' particolare, perché Archie Blair, che era il presidente della Cadence, l'etichetta appunto che pubblicava la colonna sonora di questo film, si rifiutò di pubblicare il singolo nella versione cantata da Andy Williams. Lo riteneva troppo tradizionale per il pubblico dell'epoca e quindi nonostante poi Andy Williams l'avesse cantata nel 1962 alla cerimonia degli Oscar, per il quale vinse tra l'altro come miglior canzone, e quindi nella pellicola di Blake Edwards a cantarla è la protagonista Audrey Hepburn. Nell'album invece della colonna sonora originale ne è stata pubblicata una versione orchestrale, quindi non c'è la versione cantata. A condurla appunto al successo su 45 giri non è Williams ma Jerry Butler, che la porta al numero 11 nella classifica. Insomma, un tema indimenticabile, dolcissimo e assolutamente da considerare davvero tra le canzoni più belle e romantiche. È vero, quindi noi non ascoltiamo la versione originale con la voce di Audrey Hepburn, bensì la versione recente tratta da questo album nuovissimo di Bill Frisell. Moon River apre questa puntata intitolata Jazz and Movies. Moon River, brano scritto da Henry Mancini per la colonna sonora di Colazione da Tiffany. E da Colazione da Tiffany poi, che è un film del 1961, il mio anno di nascita, pensate, facciamo un salto indietro di 30 anni, 1931, quando Herman Apfeld scrisse As Time Goes By, celebre composizione, anzi brano che diventò celebre 10 anni dopo, quando fu inserito nella colonna sonora del film Casablanca. Esatto, era il 1942, con questi due protagonisti che hanno fatto, diciamo, la storia del cinema, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, in un film bellissimo in cui questa versione viene cantata da il personaggio Sam, interpretato da Dolly Wilson. Tu hai scelto una versione... Io ho scelto una versione recente. Esatto. Tanto per dimostrare che quando una melodia funziona, funziona sempre. E infatti Anthony Strong, cantante pianista inglese, non si è lasciato sfuggire l'occasione di rivisitare a suo modo, in una versione un po' fashion e anche al limite del pop, As Time Goes By, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica L'abbiamo intitolata Jazz and Movies la puntata di questa sera, tanto per fare un piacere a Silvia Barba, che è anche appassionata di cinema. Grazie. Quindi in sequenza abbiamo ascoltato Moon River, brano scritto da Harry Mancini e Johnny Mercer nella versione di Bill Frisell. Poi abbiamo ascoltato As Time Goes By nella versione contemporanea di Anthony Strong, brano tratto da Casablanca, e questo l'avrete riconosciuto, Singing in the Rain, versione recente di qualche anno fa per la voce e il pianoforte del bravissimo Jimmy Callum, best seller del jazz inglese. E anche questo, Singing in the Rain, brano che è entrato a far parte insomma del songbook americano, soprattutto della cinematografia americana. Esatto, anche in questo caso parliamo di un tema appunto scritto alla fine degli anni 20, ma portato al successo dal film del 1952 con protagonista il meraviglioso Gene Kelly. Chi è che non ha visto la scena di lui che zompetta sotto la pioggia? No, meraviglioso il film, ma formidabile Gene Kelly, grandissimo artista. E poi mi sa che tutti si sono sempre posti il quesito: chi preferisci, Gene Kelly o Fred Astaire? Insomma, una bella lotta fra Gene Kelly e Fred Astaire. Allora, Jazz and Movies questa sera. Torniamo a Harry Mancini, perché c'è un altro tema bellissimo, e questo è diventato un vero standard di jazz, cioè una composizione che poi dal film ce la ritroviamo molto spesso nei jazz club, eseguita da musicisti meravigliosi, come il caso di questi, dei protagonisti di questa sera, ovvero il pianista Bill Evans con Toots Thielemans in questa versione di The Days of Wine and Roses, tratto dal film che aveva come protagonista il meraviglioso Jack Lemmon. Esatto, e il regista è Blake Edwards, lo stesso di Colazione da Tiffany. Ecco, vedi? A volte ritornano. Ma la classe non è acqua. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. E questo brano è diventato quasi uno standard contemporaneo del jazz, brano scritto da Bill Lee nella versione originale, quella proprio del film Mo Better Blues, con protagonisti Branford Marsalis, con il suo quartetto c'era ancora Kenny Kirkland al pianoforte, e special guest la tromba di Terence Blanchard. Sì, il brano scelto da Spike Lee come tema portante per Mo Better Blues. Un film meraviglioso che ho rivisto in questi giorni. Di che anno è Mo Better Blues? 1990. Mm. Tra l'altro Bill Lee è il papà di Spike Lee, la sorella di Spike Lee è la coprotagonista che appunto interpreta Indigo, una delle due donne innamorate di Denzel Washington. Un film a conduzione familiare. Esatto. E alla fine, dopo vari dissidi tra Bill Lee e Spike Lee, si era deciso di chiamare appunto un giovane trombettista, Terence Blanchard, che tra l'altro poi diventa davvero uno dei protagonisti di tutte le colonne sonore dei film di Spike Lee. Un piccolo aneddoto: questo film si doveva chiamare Beneath the Underdog, che non è solo il titolo del club protagonista del film, ma è soprattutto il titolo dell'autobiografia di Mingus. E poi però Spike Lee optò per Mo Better Blues. Mo Better Blues al Soundcheck Radio 24. Abbiamo ancora pochi minuti a nostra disposizione per presentare l'ultimo brano tratto da una colonna sonora, brano che è diventato uno standard non solo di jazz, ma ho sentito versioni di tutti i tipi di Happy di Pharrell Williams. Beh, è un brano bellissimo che tra l'altro è stato riproposto in tante altre versioni, è vero? E che ha ottenuto un successo internazionale proprio perché è stato inserito nella colonna sonora di un cartone animato importantissimo, un film di animazione di grande successo, nella versione italiana era intitolato Cattivissimo Me 2, giusto? Esatto, 2013. Allora, chiudiamo con Happy di Pharrell Williams, però come vedi realizzato da un altro trombettista. A proposito di trombettisti, Till Bronner, trombettista tedesco ma ormai di fama internazionale, con Hivert Arp in questa versione di Happy che chiude il soundcheck. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo qui su Radio 24. A tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo e Silvia Barba. Ciao a tutti.